tempo di sport. Amici di Radio 24, buon pomeriggio, benvenuti da Massimo Callegari, Filippo Aureggi in regia, Flavio Suardi in redazione per questo nuovo appuntamento con questo calcio bulimico senza soluzione di continuità dal campionato del mondo all'inizio della stagione delle grandi in attesa del Milan che si raduna il 20 luglio, hanno già iniziato a correre Juventus già da qualche tempo in considerazione dell'inizio precoce della stagione con l'Europa League e Inter ieri con il primo allenamento di Rafa Benitez davanti a 1000 tifosi. C'è però un motivo che domina, che parte dai mondiali e prosegue in questa sessione di mercato che ci attendiamo prima o poi possa svilupparsi in maniera un po' più rapida e interessante rispetto a quanto è successo ora e si concluderà poi nella prossima stagione, ovvero una serie di giocatori anche con caratteristiche un po' simili che hanno faticato, stanno faticando e in generale potrebbero essere uomini di mercato, in alcuni casi spesso anche deprezzati o magari nel caso di Ronaldinho, chissà, verso un calcio molto meno probante e molto meno stimolante dal punto di vista complessivo rispetto a quello europeo. Ne parleremo con voi naturalmente all'800 24 00 24 per le vostre telefonate e i messaggi SMS al 349 238 6666. Ne vogliamo parlare subito però con un tecnico e acuto commentatore televisivo col quale ho condiviso diverse serate a Premium Calcio e anche diverse sfide di Champions League, Giancarlo Camolese, bentornato, buona giornata. Grazie, buona giornata, ciao. Giancarlo, è successo insomma quello che oggi ha riassunto un po' Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport, che il Mondiale ha registrato le difficoltà di molti numeri 10 per caratteristiche o semplicemente per numero di maglia e soprattutto sta per succedere che giocatori come Ronaldinho e Diego, che sono numeri 10 anche se molto diversi per caratteristiche, chissà, forse anche Kakà, potrebbero vivere un'estate mobile verso altre destinazioni. È un momento così in cui si incrociano tante vicende personali oppure c'è un motivo tecnico o generale di questo calcio postmoderno che mette un po' alla frusta questi numeri 10 un po' troppo classici forse? Ma guarda, io credo che bisognerebbe analizzare singolarmente ogni caso, perché ognuno dei giocatori che hai citato è arrivato al mondiale con una situazione differente, quindi chi ha avuto problemi fisici, ricordiamo che Kakà non ha fatto una grande stagione al Real, soprattutto per questa pubalgia o pseudopubalgia che sembra che lo assilli da parecchio tempo. Altri hanno avuto invece, magari sono arrivati alla fine di una stagione difficile, lunga, impegnativa, quindi bisogna un po' parlare così, secondo me, singolarmente. Qualcuno ha avuto anche problemi dal punto di vista tecnico-tattico, per esempio Messi, secondo me, non è stato messo nelle condizioni per far vedere tutta la sua classe, al di là magari dallo stato più o meno buono di forma. Dal punto di vista specifico e dei singoli c'è molto rumore attorno a Ronaldinho. In queste ore è previsto l'arrivo del fratello per parlare con il Milan, dal Brasile dicono per cercare di portare immediatamente Digno al Flamengo, dall'Italia qualcuno dice invece solo per provare a trattare il rinnovo. Ti sembra che dal punto di vista tecnico, tattico e anche dinamico, visto le ultime foto che sono state esposte di Ronaldinho in vacanza mentre gioca a football in Brasile, sia un giocatore per il quale Allegri si strapperebbe i capelli per la sua permanenza, oppure credi che il nuovo tecnico del Milan, tutto sommato, abbia in mente anche una squadra senza il brasiliano? Probabilmente lui sta pensando anche ad una squadra con delle alternative, però prima di rinunciare a un giocatore di classe come Ronaldinho, che in molte occasioni può fare la differenza, io credo che sia Allegri che il Milan ci penseranno diverse volte. Poi è chiaro che dal punto di vista tattico Allegri e il Milan deve creare attorno a Ronaldinho una struttura tale che permetta a lui di lavorare poco in fase difensiva e di esaltarne le qualità in fase offensiva. Se non sbaglio, Ronaldinho quest'anno ha fatto più di 10 gol e comunque ha fatto delle partite in cui la differenza l'ha fatta. È chiaro 15 che assist passano anche. Gli anni anche per lui, e anche lui sa che il calcio italiano è un calcio molto impegnativo dove c'è molta critica, e quindi chiederà anche delle garanzie dal punto di vista tecnico. Io penso che è una fase in cui sia il giocatore sia la società e l'allenatore stanno ragionando su quale può essere la soluzione migliore. Secondo la tua esperienza, quando un calciatore inizia a pensare al calcio brasiliano, quello attuale, non quello di 5-10 anni fa, quindi un calcio giocato su ritmi molto molto bassi e dove i migliori cercano di iniziare la carriera e poi se ne vanno presto, oppure un calcio come quello statunitense, dal punto di vista mentale è ancora predisposto per giocare un biennio almeno ad altissimo livello? Ma sai, ci possono essere tante cose che spingono un giocatore ad un certo punto della sua carriera a trovare nuovi stimoli. Uno può essere quello magari personale, familiare, di tornare nel proprio ambiente per programmare magari il proprio futuro in un certo modo. L'altro può essere quello di vivere un'avventura molto particolare, come può essere il calcio degli Emirati Arabi o quello degli Stati Uniti, che sai che è molto meno impegnativo, molto meno stressante, dove ci sono magari grandi guadagni in ogni caso e ci sono prospettive magari per un futuro in altri ruoli. Quindi diventa difficile. È chiaro che chi vuole vincere, chi vuole un calcio con un certo tipo di pressione, va a cercare l'Inghilterra, cerca l'Italia, cerca la Spagna. Questo mi sembra più che ovvio, cerca club di un certo prestigio, quelli che fanno la Champions, quelli che si misurano ad altissimi livelli. Ci sono un po' di sms al 349-238-6666. Mario da Milano chiede se cedendo Digne e Huntelaar il Milan potrebbe tentare il doppio colpo Ibra Luis Fabiano. Non è un'idea così facile da mettere in pratica, né dal punto di vista economico né dal punto di vista tecnico, anche perché il Milan, non dobbiamo dimenticarlo, ha Pato in rosa ed è un attaccante di altissimo profilo, di altissime prospettive. Poi c'è Barbara che da un paio di giorni chiede se il Milan attuale invecchiato di un anno non rischi la Serie B. Insomma, non esagererei con il pessimismo, anche se è chiaro che è una squadra che dal punto di vista dinamico va un po' ravvivata. C'è sempre Giancarlo Camolese con noi, tra poco spazio anche alle vostre prime telefonate all'800 24 0024. Abbiamo parlato un po' di questo Ronaldinho inquieto, comunque con ambizioni di futuro, chissà se in Italia o chissà se oltre oceano. Il giocatore che ha vestito la maglia numero 10, Giancarlo, ai mondiali per la nazionale brasiliana è stato Kakà, che ha giocato un paio di assist meravigliosi per Luis Fabiano, anche se erano passaggi molto brevi, molto corti, ma sono stati di altissimo profilo. Poi il Brasile è naufragato nell'ultima mezz'ora con l'Olanda e Kakà è stato uno dei colpevoli dell'eliminazione e del mondiale negativo della Seleção. Come ti è sembrato il suo mondiale e come hai visto Kakà muoversi in campo? Guarda, rispetto alle notizie che arrivavano dalla Spagna, è sicuramente in crescita, perché poi ha fatto anche delle buone prestazioni, anche dal punto di vista fisico gli abbiamo rivisto fare qualche giocata delle sue, il fatto di partire in progressione, di andare ad attaccare lo spazio, cosa che insomma è nelle sue caratteristiche. La pubalgia purtroppo per un giocatore è un qualcosa di fortemente, tra virgolette, invalidante, nel senso che ne determina proprio in maniera negativa le giocate, perché qualsiasi cosa lui voglia fare, come spostamenti laterali, avverte dolore. Quindi questo sicuramente, se lui guarisce, è un giocatore di altissimo livello, e secondo me le ultime partite che ha fatto al mondiale fanno vedere che è sulla strada giusta. Credo che il prossimo anno risentiremo parlare di Kakà come l'abbiamo conosciuto qui in Italia al Milan. Senti, noi eravamo insieme, abbiamo commentato insieme la partita che il Real perse a Lione negli ottavi di andata, poi venne eliminato al ritorno anche se giocò meglio, e Higuaín sbagliò in maniera ancora oggi incomprensibile il gol del 2-0 che avrebbe cambiato molto di quella partita, di quel doppio confronto e forse della stagione del Real. Però in quella gara a Lione in particolare ci fu la sensazione diffusa che un pallone non fosse sufficiente per tutti i giocolieri che aveva in avanti il Real, e probabilmente anche lo spazio di cui loro avevano bisogno era ridotto. Credi che Mourinho possa trovare una soluzione per far convivere Ronaldo, Higuaín e Kakà, e che eventualmente la partenza di Raul e di qualche altro giocatore molto offensivo possa portare, chissà, magari a un tridente con solo questi tre uomini offensivi supportati da tre centrocampisti, chiaramente poi con capacità di inserimento, di manovra e dinamiche? Ma guarda, noi abbiamo visto un Real a Lione molto lento nella fase di impostazione, quindi da dietro la manovra già non partiva bene. In mezzo al campo c'erano due incontristi, non c'era nessuno che sapesse fare gioco, per esempio tipo Cambiasso, quindi giocatori che sanno dare i tempi ai compagni. E poi abbiamo visto questi grandi solisti che comunque tutti volevano la palla sul piede, tutti volevano in prima battuta puntare l'uomo per saltarlo, e in questo modo l'azione si rallentava, e in questo modo le difese avversarie, che adesso sono tutte molto organizzate, molto agguerrite, con tutti gli uomini dietro la linea della palla, riuscivano a rientrare e occupare bene gli spazi, quindi questi giocatori trovavano molto più difficoltà. Bisognerà vedere se Mourinho intanto riuscirà a mettere nella testa di questi giocatori il fatto di giocare massimo a due tocchi, soprattutto quando si trovano squadre che si difendono in maniera così compatta, come spesso abbiamo visto al Mondiale. E poi è chiaro che dipenderà molto anche dalla stagione. Per fare un riferimento ai numeri 10 che tu accennavi all'inizio, secondo me poi determinante è la prima punta, perché prima ti dicevo di Messi, che secondo me non è stato messo nelle condizioni. Secondo me un giocatore come Messi, molto bravo, che parta sull'esterno, che parte dietro una prima punta, ha bisogno di averne una davanti che sappia giocare. Higuaín è un ottimo giocatore, un grande cannoniere, però secondo me non ha i piedi di Milito, non ha il passaggio di Milito, non sa dialogare, i tempi di gioco quindi poi l'allenatore deve stare anche attento a queste cose, no? Quindi Higuaín è un ottimo giocatore, un finalizzatore, ma gioca poco con i compagni, mentre questi giocatori, Kakà, Diego, Messi, hanno anche bisogno di avere attorno a loro giocatori che sappiano palleggiare, quindi possono fare uno scambio, andare dentro, che la palla gli ritorni. Insomma, c'è da stare un po' attenti. L'ultima cosa ti chiedo prima di lasciare spazio ad alcuni ascoltatori, ce ne sono già: Matteo da Vicenza, Paolo da Macerata, all'800 24 00 24, arriviamo da voi tra un attimo, però mi interessava molto sapere se Del Neri secondo te può lavorare su Diego, ripensando a come ha lavorato su Doni, su Cassano, cioè se ci sono le condizioni di base proprio di caratteristiche del giocatore per fare in modo che lui sia inseribile in un disegno tattico, anche se poi Del Neri ha chiarito va lasciato piuttosto libero, però deve avere comunque un indirizzo, e ora si parla ad esempio di quello di seconda punta, anche se alcuni sono un po' scettici sulla sua capacità realizzativa. Secondo te ci sono le condizioni per lavorare e provare a lavorare su Diego, oppure la Juve, se arriva l'offerta, fa bene a cederlo? Ma guarda, io penso che in questo momento Del Neri dica le cose che deve dire un allenatore che in rosa ha un giocatore importante che però può essere anche ceduto. Quindi se Diego rimane, secondo me lui, Diego, può giocare bene dietro una prima punta, con due esterni che comunque abbiano caratteristiche per saltare l'uomo, per rientrare, per fare la fase difensiva. È chiaro che le squadre di Del Neri hanno sempre avuto una prima punta molto forte di testa, bravo nel gioco aereo, e un altro giocatore in grado di girare attorno, penso a Cassano e a Pazzini, penso addirittura quando aveva Marazzina e Birov, cioè comunque lui ha avuto sempre, diciamo, una punta che dava più la profondità e un giocatore che girava un po' più attorno e veniva a dare una mano a metà campo. Però anche in questo caso la differenza la possono fare poi gli esterni e i due centrocampisti davanti alla difesa. La Juve ha Felipe Melo, ha Sissoko, ha Marchisio, comunque giocatori che lo scorso anno hanno dimostrato che nel giocare insieme in mezzo al campo qualche problema nella fase di impostazione la Juventus l'ha avuto, quindi forse lì stanno riflettendo. Grazie Giancarlo, sei stato molto obiettivo e come sempre incisivo. È inutile che ti dica che, anche se abbiamo analizzato con, ripeto, grande oggettività anche la Juventus, ci sono molti tifosi del Toro che ti salutano via SMS. Grazie, un abbraccio a voi e a tutti i tifosi del Toro. Grazie Giancarlo Camolese, a presto, buona estate. Un'estate che sarà anche peraltro di aggiornamento, perché prima mi diceva nella telefonata prima di iniziare il programma che sarà a seguire anche gli europei under 19 per così valutare anche dal punto di vista tecnico molti giovani e per evitare che poi, come è successo anche nel corso dei mondiali, alcuni giocatori che per chi segue il calcio dovrebbero essere noti, poi vengano in realtà valutati o extravalutati rispetto alle loro potenzialità o alle loro capacità per una prestazione o per una settimana, due settimane di buon livello. Ci sono ancora molti SMS, tra poco poi li sintetizzo dopo la pausa per la borsa. Prima però andiamo da Matteo da Vicenza, buon pomeriggio. Buon pomeriggio signor Massimo, buon pomeriggio. Ascolta, io sono un grandissimo suo estimatore e anche di Stefano Borghi. Sud America, Italia, insomma. Sud America, insomma. Sì, sì, Sud America, assolutamente. Ascolti, volevo sapere un suo parere su due giocatori riguardanti River Plate, Ahumada e Funes Mori. Sì. Starebbero bene, diciamo, in una squadra come la Juventus. No. Secondo me potrebbero anche funzionare. Addirittura Ahumada. Sì, sì. Sì, ma non lo so, l'ho visto un po' lento ultimamente, però non lo so, magari al posto di Melo lo vedrebbe, forse un po' meglio, diciamo. Quello, per quello che si è visto nell'ultima stagione, al posto di Melo potrebbero stare tanti, anche se è un calciatore che tecnicamente ha delle qualità, anche fisicamente, poi ha dei limiti di altro genere. Ahumada è un giocatore che peraltro è già stato in Europa, in Germania, e poi è tornato. Non ha il profilo per la Juventus e peraltro era stato accostato all'Atalanta 2-3 anni fa, quindi quello è, diciamo, il profilo di squadra. Funes Mori è un attaccante che in Argentina stanno reclamizzando molto e che sicuramente deve maturare ancora un po' per essere poi da grande squadra. Però queste osservazioni, ecco, ci tengo, perché poi siccome l'ascoltatore che ha chiamato è molto appassionato di calcio sudamericano, lo ha seguito e lo segue evidentemente su Sport Italia ancora con il racconto di Stefano Borghi che ha citato, come probabilmente lo seguiva quando lo raccontavo io ancora 3-4 anni fa. È difficile, è davvero difficile, lo dico così in generale, riuscire a capire quanto un giocatore si può adattare al calcio europeo, e magari noi vediamo lì in Argentina, in Brasile, in Copa Libertadores, giocatori che si esprimono ad altissimo livello. Ci sono tante dinamiche di condizione fisica, di entusiasmo, di quanto si sentono al centro dei progetti delle loro squadre, che li fanno rendere a un livello che fa pensare che possano essere pronti per il calcio europeo. Poi vediamo che è molto molto difficile per loro imporsi, anche perché ultimamente vengono via sempre più giovani e quindi sempre meno maturi. Comunicazione di servizio, prima di passare agli ascoltatori all'800 24 0024, Nicola da Treviso dice: sono più giorni che in provincia di Treviso appunto la voce va e viene, dunque provvederemo, spero, rapidamente come sempre a migliorare questo dettaglio. Ci sono molti messaggi SMS, però soprattutto c'è Paolo da Macerata all'800 24 0024 che attende da un po', e dunque spazio a lui. Buon pomeriggio, benvenuto. Buon pomeriggio a voi, grazie. Volevo un commento, un'opinione sulla possibilità molto concreta, poi magari mi saprai aggiornare tu, sulla possibilità che torni Zeman come allenatore e insieme al binomio Casillo-Pavone nella realtà di Foggia. È una notizia che comunque ha creato un'enorme aspettativa per tantissimi appassionati di calcio. Volevo sapere se, uno, se ne sapevi qualcosa, due, cosa ne pensavi di questo accordo. Ma non ho aggiornamenti dettagliati. Amarcord è la parola giusta, nel senso che dal punto di vista così del calcio romanzesco è una bellissima riproposizione, però è difficile pensare che possa avere lo stesso impatto e soprattutto l'immediatezza nei tempi, insomma, di resa che c'è stata e ci sono stati quando erano tutti insieme in Serie A, i personaggi che lei ha citato, Casillo, Pavone e appunto Zeman. Insomma, è passato molto tempo da allora e i tempi cambiano e non ho neanche, sinceramente, questo non lo so, idea di come sia poi pronta e predisposta la realtà di Foggia per supportare un progetto che, è vero, allora era nato con giocatori totalmente sconosciuti, penso a Seno, De Vincenzo, Codispoti, il portiere Mancini, poi signore Rambaudi Baiano naturalmente, ma c'era comunque un'idea tecnica che doveva essere basata anche su un supporto del territorio. Non so in questo momento come sia la situazione lì. Ci sono un po' di sms al 349-238-6666, anche ascoltatori in linea all'800-24-00-24. Tra un attimo da loro, Stefania da Belluno dice via Ronaldinho e arriva Luis Fabiano, ennesima cavolata della dirigenza, mentre Rossano dice insomma il Milan qualcosa di buono ha fatto dal punto di vista del mercato negli ultimi tempi, ad esempio ha ceduto Kakà alla Real Madrid sapendo che era una sola e quindi era una cessione molto vantaggiosa. Giancarlo D'Alessandria chiede meglio Mourinho o Benitez, è un discorso molto lungo, magari lo affrontiamo nei prossimi giorni in maniera più approfondita, però dice via Balotelli, come anche un altro ascoltatore che non approva il fatto che Balotelli si sia ritirato dall'Associazione Italiana Calciatori, mentre mi sembra interessante quello che ha scritto Mauro, che dice ci sono troppi club a livello nazionale, questo sicuramente non aiuta lo sviluppo del movimento dal punto di vista tecnico e non solo, oltre a dirigenti federali piuttosto attempati anche come dinamiche generali che propongono, e giustamente ci sono troppi club professionistici in Lega Pro soprattutto, e la Serie A andrebbe ridotta, lui dice addirittura a 16 squadre, quello è impossibile, magari a 18, ma già se ci fosse una Serie B migliore e una Lega Pro ridotta senza prima e seconda divisione, con due al massimo tre gironi, il livello sarebbe sicuramente migliore, anche perché adesso la Lega Pro di seconda divisione è quasi semiprofessionismo, sicuramente per la gestione dei club, poi dal punto di vista tecnico quasi di conseguenza, però quella che una volta era la Serie D per livello tecnico ormai è diventata la Lega Pro nella seconda divisione, con qualche eccezione. Vincenzo dalla provincia di Rimini, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei, salve. Io sono un tifoso sandoriano e volevo agganciare il discorso della nostra squadra un po' alla nazionale, no? Dopo arrivare ultimi dietro, insomma, in un girone facilissimo. La Sampdoria ha sempre puntato moltissimo sui giovani. Quando io sento parlare di settore giovanile da tanti anni mi viene da ridere, mi sembra di sentire la politica, promettono, eccetera. Cioè, l'Inter è pieno di stranieri, il Milan è pieno di stranieri, la Juventus non va benissimo, ma nessuno ha mai pensato di cominciare a ragionare su squadre come la nostra, come il Cagliari, come il Chievo, fare un progetto di giovani che, vabbè, i prossimi europei non andremo bene, costruiamo una squadra di giovani, portiamoli avanti, noi andiamo a fare i preliminari, abbiamo Volta del Cesena, Rossini del Sassuolo, tutti giovani molto interessanti. Possibile che devono giocare solo in squadre come le nostre? No, quello no, però se rimane in linea mi fa piacere anche chiederle un dettaglio interessante. No, non è che devono giocare solo in quelle squadre lì, però è anche vero che lei parla di settore giovanile, ma negli ultimi anni solo Poli è arrivato dal settore giovanile della Sampdoria e ha giocato peraltro una stagione, peraltro molto molto bene. Lei ha citato i grandi club, alcuni si sono mossi in ritardo negli ultimi tempi, altri si sono mossi in maniera più programmata, e l'Inter che lei ha citato, è vero che ha molti stranieri, però la Germania ce l'insegna, cioè si lavora anche su un progetto di giovani non solo italiani o comunque non totalmente italiani, perché si va verso questo tipo di calcio. Però mi interessava sapere da lei se effettivamente è così drammatica la perdita di Fabio Paratici per la Sampdoria, perché pare che Garrone si sia veramente disperato per questo ancor più che per la partenza di Marotta o di Del Neri. Me lo può confermare lei? Ma io glielo posso anche eventualmente confermare, non essendo dentro la società. Però il fatto che noi dobbiamo far crescere in Italia i giovani stranieri, facendoli giocare nelle grandi squadre, e tenere i nostri giovani in squadre di provincia come la nostra, che abbiamo fatto una cosa meravigliosa l'anno scorso, probabilmente spero di andare avanti, ma cercare di far salire i nostri giovani, non gli stranieri, questo è il punto che dico io. Cioè Macheda che gioca nel Manchester United e in Italia non trova spazio, ma Rilungo che da noi non solo insieme a Poli è un attaccante strepitoso che probabilmente per farlo giocare, speriamo che riesca a giocare, in una squadra come la nostra, lei ha citato Poli che è bravissimo, le dico Marilungo, le dico Mannini, le dico Pazzini, Cassano, questi li conosciamo. Palombo, non sono giovanissimi però, insomma potrebbero essere i nuovi vecchi che aiutano i giovani a crescere. Ah, quello sì, perché se noi rimaniamo sempre fermi così, non andremo mai da nessuno, credo io, poi mi sbaglierò sicuramente, però per me è un progetto sul settore giovanile, a partire dall'Under 21. Lei non so se ci ricorda Italia 90. Io mi ricordo benissimo il blocco della Nazionale d'Italia 90, che è stato fantastico. È vero. Era il blocco dell'Under 21. È verissimo, di vicino. Guardi l'Under 21 di oggi, chi c'è in Nazionale A? Nessuno praticamente. Va bene. Questo è un po' il punto, capito? Grazie Vincenzo, grazie lei, da Rimini. Ernesto, la provincia di Milano, buon pomeriggio. Ah, buon pomeriggio a lei. Io volevo continuare il discorso che ha appena iniziato Vincenzo. Cioè, io notavo questo. Abbiamo a capo della Nazionale Italiana un allenatore che, a parte essere una bravissima persona, è un grandissimo conoscitore di calcio, è anche uno che piace lavorare con i giovani. Abbiamo adesso, da quest'anno, in 5 dei 6 primi club italiani, allenatori che secondo me sono grandissimi allenatori, pure emergenti, e anche a loro piace giocare con i giovani. Io penso che noi abbiamo una grandissima opportunità, cioè presentarci, non dico fra 2 anni agli europei, ma fra 4 anni ai mondiali in Brasile, con una nazionale di giovani, che adesso sono dei giovani molto promettenti, che hanno fra i 20 e i 24 anni, che in ad esempio, saranno, mi fa un po' di nomi esempio, però. Non so, per esempio a me piace tantissimo Matri, mi piace Acquafresca, mi piace Marchisio della Juventus, io sono milanista, però secondo me un giocatore, se è bravo, è bravo indipendentemente dalla maglia che ha su, certo. Per cui mi piacciono della Sampdoria, ce ne sono un paio che mi piacciono. Insomma, se Prandelli, come penso che faccia, inizierà a mettere dentro questi giovani, fra l'altro Balotelli io lo considero uno dei più grandi fenomeni che abbia mai visto giocare negli ultimi tempi, infatti la mia coppia di attaccanti ideale sarebbe Patto Balotelli, però purtroppo non avverrà. Nel Milan sognavo che avvenisse, però sono sicuro che non avverrà. Ecco, io dico, non sembra che noi c'è questa congiuntura, cioè che fra 4 anni noi possiamo andare in Brasile a fargli vedere i sorci verdi, come si può dire, ecco. Sì, la vedo un po' ottimista, però non perché l'idea non sia giusta, però per il fatto che tutti i discorsi che stiamo facendo sono veri, sicuramente c'erano giocatori che potevano esprimersi meglio di quelli che hanno giocato in Sudafrica, anche se non ci avrebbero fatto vincere, però non ci sono giocatori già così pronti e all'orizzonte non ci sono soprattutto uomini squadra, a meno che De Rossi non maturi in maniera definitiva da questo punto di vista negli appuntamenti veramente importanti, a meno che non lo faccia Montolivo, ho molti dubbi perché è un giovane ormai di ieri se non dell'altro ieri, e anche se Prandelli punterà su di lui, però i difetti di personalità che lui aveva quando è arrivato a Firenze, poi Prandelli non è riuscito a migliorarli né a permettere di superarli. In difesa ci sono alcuni giocatori di grande prospettiva, si parla molto di Bonucci, ma ancora di più chi ha seguito il Bari in questi anni ha riferito di Ranocchi, che abbiamo visto peraltro in Serie A giocare molto bene. Però insomma non credo che andremo in Brasile a fargli vedere i sorci verdi, potremmo fare sicuramente qualcosa di meglio di quanto abbiamo fatto in Sudafrica. Un po' di pazienza a un paio di ascoltatori da Milano che coinvolgeremo tra poco dopo una breve pausa. Ci sono ancora un po' di sms invece. C'è Antonio D'Ariccione che chiede e dice che Biabiani secondo lui è un ottimo acquisto per l'Inter e credo che sia un giocatore che può dare molto all'Inter, se non altro in attesa di capire il suo valore assoluto, per le caratteristiche che ha, che sono piuttosto uniche, di velocità, di imprevedibilità e che servono sempre all'Inter, e soprattutto è un giocatore che può giocare sia con due attaccanti esterni e un centravanti, sia con tre giocatori alle spalle del centravanti, come è successo quest'anno. Può fare l'ala molto molto bene, ha grande capacità di corsa, dunque effettivamente è un giocatore che oltre a essere cresciuto proprio nell'Inter ha delle ottime prospettive. Marco invece boccia l'acquisto di Luis Fabiano, dice sarebbe un altro Riccardo Oliveira. Continuo a pensare che Riccardo Oliveira non era quel pessimo giocatore che si è visto in Italia, anche se lui non ci ha messo del suo per fare di meglio sin dalle fasi di allenamento in cui era piuttosto svogliato. Meglio Ganso del Santos, vabbè, certo, però è un ragazzo giovane di grandissime prospettive e il Santos chiede credo già decine di milioni di euro per lui. Non riesco a capire tutte queste critiche rivolte al nostro sistema calcio, vivai nazionale, siamo i campioni del mondo uscenti, la Spagna al suo primo mondiale vinto, vogliamo imparare da loro, chiede Michele. Ad esempio il presidente Alconi Petrucci dice di no, nel senso che lui si tiene il sistema Italia in tutte le sue caratteristiche. Qui stiamo discutendo di questo e anche di altri aspetti. Poi volevo chiarire perché Fabio dice quali sono i giovani dell'Inter che potrebbero essere italiani, come per la Germania mi pare nessuno. In realtà questo è vero, ma il mio discorso non era riferito solo a un discorso nazionale, era riferito al fatto che le squadre lavorano sul settore giovanile e possono farlo per il loro interesse di club, chiaramente non del calcio del nostro paese, anche andando ad acquistare giocatori giovani da altri paesi, e poi dopo li fanno crescere secondo le loro dinamiche e i loro valori. Non penso che siamo già al livello del Barcellona quando ha acquistato Messi, ma insomma l'idea è quella, cioè si può arrivare a prendere un giocatore quando è molto giovane, lavorare su di lui e poi dopo si hanno giovani che sono già formati e sono già pronti per giocare in prima squadra se c'è un progetto e un percorso stabilito per loro. Questo intendevo prima quando mi riferivo a questo. Poi c'è anche chi sostiene la candidatura di Balotelli e dice, come Diego, se il ragazzo mantiene le promesse fra un paio d'anni non sarà più possibile riacquistarlo, penso dal punto di vista dell'Inter. Peraltro mi fa piacere sottolineare che Balotelli, con il minimo, ma questo è un dettaglio insomma, perché ci sono ancora molti ragazzi che lasciano la scuola con l'idea di fare calciatori e basta, oggi ha ottenuto il diploma della maturità e quindi ha superato questo che è un momento comunque importante della sua crescita personale. Andiamo con le telefonate all'800 24 00 24. Fabio dalla provincia di Milano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, sono Fabio, ciao. Prego. Io sono tifoso del Milan. Sì. Volevo solamente dire una cosa, cioè sono molto deluso, premetto, dalla dirigenza, perché io sempre stato abbonato. Da tanti anni che sono abbonato e ho sempre seguito il Milan anche quando non andavano bene le cose, quindi non è che perché adesso non vanno bene io mi tiro fuori. Però io dico solo una cosa, la nostra dirigenza quest'anno, sono due anni che dice che bisogna darsi una ridimensionata, perfetto, va bene, puntiamo sui giovani, però poi quando va sul mercato fa cose completamente al contrario. Cioè io parlo dei vari Paloschi, Gorkuf, Astori. Vuoi puntare sui giovani? Bene, Paloschi è un nostro giocatore che arriva dalla primavera. Portalo a casa. Io dico, vai a spendere 15 milioni per Huntelaar. Cosa è servito? Huntelaar si è visto, niente. Perché poi non si è ambientato, perché poi non riesce a fare quello che riusciva a fare prima negli altri campionati. Io dico... quest'anno loro hanno preso Yepes, 34 anni. Cioè, che cosa serve una cosa del genere? Io voglio sapere, lei si abbona o no alla fine? Sono indecisissimo, giuro. dopo 25 anni, il mio posto, che ho sempre preso il mio posto al primo anello blu, dopo 25 anni adesso è vacante. Io veramente... Cioè, e se venisse ceduto Ronaldinho, cosa farebbe? Sarebbe ancora peggio, perché è l'unico che ogni tanto ci fa divertire. Cioè io quest'anno, dopo che hanno mandato via Leonardo, mi è arrivato il primo dubbio di non fare l'abbonamento, perché Leonardo quest'anno, vi posso garantire, ha fatto i miracoli con quello che aveva in mano. Sì, ha fatto qualche errore anche lui, soprattutto a Manchester, insomma, in altre partite gestite, sì, ecco, okay. Difficili partite, però insomma. Scusa, ci può stare che ha fatto qualche errore, era la prima volta che si sedeva su una panchina. È vero. Del Milan, che non è una squadra qualunque, quindi doveva tirare fuori il meglio da tutto quello che aveva. Ha avuto anche Pato e Nesta, che non ci sono stati i momenti clou, è vero. Però io dico una cosa, ma è mai possibile che il nostro presidente, grazie di tutto quello che hai fatto, grazie per... Però adesso, se non hai più quella voglia o quell'amore di poter fare una squadra competitiva... E vediamo, magari poi dopo vi prende Ibra... Ma io, ecco, questa è un'altra cosa. Devo salutarla, però, perché ci sono anche altri. Però mi faccia sapere, noi ci ritroviamo poi verso fine agosto, mi faccia sapere se sia buono o meno. Rapidamente Andrea da Milano, poi Marco dalla Spezia, invece lo posticipiamo a domani, chiedo scusa. Andrea da Milano, velocissimo, buon pomeriggio, poi andiamo sul tour. Dica. Buon pomeriggio, mi sente? Sì, prego, dica. Senta, la mia riflessione era semplice, mi riaggancio un po' al discorso che faceva prima con Kakà, Ronaldinho, insomma queste sì. Star che non rendono più per quanto preteso da loro, per quanto ci si aspetta da loro, no? Io sono un coetaneo loro, 30 anni, l'età di Ronaldinho praticamente, mi metto nei loro panni e questa mia riflessione nasce dall'esperienza, insomma, di tanti altri casi che ho visto in cui stelle di fama mondiale, diciamo di classe mondiale, durano ormai... nell'arco di 2-3 stagioni sì. Spengono, insomma, è chiaro che con i livelli di stipendio a cui sono arrivati questi ragazzi, che ormai sono pagati quanto e oltre delle pop star più che degli atleti professionisti, poi le motivazioni per fare vita da atleta professionista o comunque per allenarsi con la fame e la cattiveria che richiederebbe restare a certi livelli è molto difficile mantenere. Vabbè, però sono pagati anche perché devono mantenere un certo tipo di prestazioni, un certo tipo di rendimento. È un meccanismo che poi dopo, se no, si limita e o uno si blinda, si autoblinda come Ibrahimovic con un super contratto e poi però non riesce a giocare per il suo atteggiamento, per i suoi limiti tecnici di carattere in un grande club come il Barcellona, oppure deve riuscire a rendere anche dal punto di vista della professionalità. Grazie Andrea da Milano, sono stato un po' brusco, ma è questione di tempo e di necessità. Vi segnalo per chiudere un'osservazione molto interessante di Alfredo, che dice: far giocare il campionato primavera prima delle gare di Serie A sarebbe più utile per aumentare l'interesse del pubblico per i giovani. Sono d'accordo, in Argentina ad esempio succede da una vita. Piero Augusto Stagi dal Tour de France, ci dai un po' lo stato dell'arte in un paio di minuti dopo il tappone di ieri con Evans fuori dai giochi dopo Armstrong. Bentornato Piero Augusto, a te. Sì, beh, in pratica intanto oggi è la festa dei francesi e i francesi sperano di festeggiare a tutti gli effetti questo 14 luglio e la loro presa della Bastiglia. Intanto festeggeranno i 150 anni della riannessione della Savoia alla Francia, e quindi oggi grandi celebrazioni, si corre appunto in Alta Savoia da Chambéry a Gap, al momento sono in fuga in sei attaccanti, il grosso del gruppo con la maglia gialla Andy Schleck è a oltre 8 minuti. Fa molto molto caldo, che un po' è la vera caratteristica di questo Tour de France fino a questi primi 10 giorni. Addirittura il fondo stradale anche questa mattina l'hanno misurato, non so bene con quale strumentazione, ma comunque è superiore ai 50 gradi l'asfalto dei corridori. I corridori però temono di arrivare sui Pirenei con questo grande calore, perché già i Pirenei da sempre sono montagne molto alte, ma soprattutto con poca circolazione d'aria e grande umidità, quindi oltre al Tourmalet potrebbe far veramente male il caldo. In realtà Ivan Basso spera che sia così, perché dice: ne vedremo ancora delle belle. Oggi chi sembra ormai destinato a vincere il Tour, e quindi chi pensa che la sfida possa essere semplicemente a due tra Contador e Andy Schleck, in realtà non è così, perché ogni giorno può succedere qualcosa. E il Tour ci ha insegnato a tutti gli effetti a vedere grandi sconvolgimenti. Nessuno avrebbe immaginato che Lance Armstrong fosse già fuori dai giochi, nessuno si sarebbe immaginato che Cadel Evans per una caduta banale ma un po' velocissima, Piero Augusto, che siamo in chiusura. L'abbiamo messa in difficoltà, quindi io dico che il bello deve veramente ancora venire. Siamo solo a metà del tour e quindi le salite più impegnative devono arrivare e abbiamo anche noi italiani qualche chance da giocarci. Benissimo, ci sentiamo sicuramente nel corso di questa settimana e anche oltre. Grazie per Augusto Stagi dal Tour de France, Flavio Suardi in redazione, Filippo Oreggi in regia. Torniamo domani, tra le altre cose credo che parleremo un po' di questo Gigi Del Neri che vedo in conferenza stampa molto deciso, con idee ben chiare in testa su Marchisio, Diego, Del Piero. A domani, buon pomeriggio con Radio 24 da Massimo Callegari.